Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La sinistra poi si domanda il motivo per il quale perde i voti tutte le volte alle elezioni. Ora il motivo principale di discussione sono le fake news. Le fake news, Parenzo, le fake news, ma le persone normali che lavorano e che pagano le tasse, cosa cazzo gliene frega delle fake news? Ovvio, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio. È così, è così, è così, è così. È così! È così! Parenzo, ti voglio carico! Allora, io ti voglio dire una cosa. Io in 20 anni ho speso 400.000 euro con la mia ex moglie di alimenti. Se fossi andato a Troie con delle troie molto più fighe della mia ex moglie, avrei speso 100.000 euro. Quindi quale cazzo è il problema di andare a Troie? E poi le troie sono sempre esistite da 2.000 anni, quindi cosa cazzo rompe i coglioni parenti questa storia delle troie? Cosa cazzo è sto moralismo? Non ero nemmeno sposato, cioè mantenimento figli. Pensa che questa qua manco lavorava, è venuta pure come una pezzente con i debiti ed è riuscita a incularmi 400.000 euro. Un genio della finanza, eh. Cioè non stiamo qui a parlare di troie, non troie, meglio andare a troie, ragazzi, perché se tu hai un momento di debolezza nella vita, ti metti con una, poi ti incula e sei fottuto. Incula. Ovvio, ovvio. Giuseppe, ciao, sono Giovanni di Reggio Calabria. Ciao Giovanni, amico mio, come stai? Giuseppe, ciao. Ciao, ciao Giovanni. Avanti tutta, Giovanni. David, dove sei? Ciao, dove sei? Giuseppe, ciao Giuseppe. Un cordiale buonasera da David Parenzo. Ibrido. Allora, ieri sera, caro David, ho avuto una lunghissima discussione su quelli che portano, su coloro che portano il dentifricio e lo spazzolino al lavoro. Certo. Cioè una roba allucinante. Io ce l'ho quelli piccoli, quelli tascabili, cioè, quelli... chi porta lo spazzolino e il dentifricio sul logo di lavoro. Certo, io e lo faccio all'ora sempre di pranzo va lì a pulirsi i denti. Certo, dopo aver mangiato è si va a lavare i denti. È un serial certo killer mancato. Mi ricordano allora molto i serial killer. Ma quella allora ripetitività. Caldarola, ti ricordi il nostro amico Caldarola, ad esempio, ma che non fa lo so, l'autore televisivo? Adesso non Caldarola fare è uno nomi che si lava gente, i denti di persone no, che ma gente... voglio dirti uno che conosci anche tu, che la gente non conosce. Allora il sottoscritto, prendi il sottoscritto. Il sottoscritto ma ha sempre pazzi con sé il kit per lavarsi i denti. Ma siete malati di mente. Per me ma, e per gli altri. Ma siete anche malati di mente con questo borsellino da serial killer dietro. No, uno va, va lì all'ora di pranzo e si lava i denti. Ma che cazzo sì, fate? Certo, naturalmente. Normale. Ma perché? Ma poi quando si, a me hanno insegnato da piccolo che quando si mangia poi ci si lava i denti, perché altrimenti il cibo si ferma in mezzo ai denti e poi ti si forma il tartaro schifoso. E la sera ti lavi i denti. Ma tu non ti relazioni con gli altri, tu non ti poni il problema della tua puzza, della tua sporcizia, di come impatta questo tuo schifo sugli altri. Se vivessi da solo lo che dice, andiamo avanti. Ovvio, ovvio. Allora, decisioni fatte apposta per creare casino. Un'associazione che promuove il sondaggio Mister Friuli Venezia Giulia 2017 ha eletto, ha nominato, sentite un po', Mister, dunque, bellezza friulana del 2017, un nero, un uomo di colore. Oh, che meraviglia, finalmente un paese civile. Di 18 anni di Cividale del Friuli, un certo... L'Italia è meglio di come la racconti. Aspetta, tu. Aspetta, un certo sì, no, Aliun Diouf, ma... Aliun Diouf, che non è nemmeno italiano, diciamo certo, la verità, non è italiano, certo. No, è senegalese come Paco. Sì. Come Paco, sì, da Belluno, come l'amico. Vabbè, Paco, sì, è uguale, identico. Ma io denuncio, aspetta, fermo, non ho detto, sì, un cazzo ancora, dai. Aliun Diouf, 18 anni, Cividale del Friuli, gioca a basket, credo, in Serie A, vuole un fare campione, il modello, un campione. È alto 1,98, è il classico, come dire, black bamboo, diciamola tutta, è il classico black bamboo. È un bel ragazzo, no, di bel colore ragazzone, Miss Friuli, alto. Mister Friuli, Mister Friuli 2017. Ma vedi, il paese è più avanti di come tu lo rappresenti con quei quattro scalzacani che telefonano, sono degli scalzacani, lo sai, quelli che secondo te qua. La rete, come ha risposto? La come quegli scalzacani che telefonano l'800240024, gli stessi scalzacani che qui chiamano in diretta in questa fascia oraria, e li invito a chiamare anche dal signor, dalla Veronica Gentili e da Telese, da Barisoni, non ci sono le telefonate, ma le metta pure lui. Chiamate anche delle altre trasmissioni, miserabili. No, andrebbero cancellate le altre trasmissioni, le telefonate delle altre trasmissioni. Perché vuoi cancellare nelle tutto? Nelle altre trasmissioni andrebbero cancellate le telefonate. Vabbè, comunque, vergogna. Cruciani come contro Radio 24, no. Cancellate le telefonate. Guarda, nuovo titolo di libro. Cosa c'è da guardare? C'è da guardare. Vergogna, come fa a essere Mister Friuli Venezia Giulia o negro? Che ci azzecca con Mister Friuli? Se si fa un concorso per Mister Friuli, si suppone che almeno, ma dico almeno, sia italiano e no, se non addirittura friulano. Questo un po' è vero, devo dire la verità. Tu fai Mister Friuli, un po' uno si aspetta che sia friulano. Si aspetta, è il contrario. Ma vive no, lì, si aspetta che sia italiano, friulano. Là. È un campione di una squadra di basket locale, campione, che gioca lì. È l'orgoglio di quel territorio. Diciamo, benissimo, è Mister Friuli. Ma ragazzi, ma non esistono più gli steccati, il colore della pelle. Di che colore ha il sangue? No, lui? Quello che c'entra. Se gli spacchi la testa, di che colore trovi il sangue? Ma uguale al nostro, che cazzo vuol dire? Ma basta, è chiaro, finito, che è così. Ma di non che c'entra colore niente ha il sangue? Ma cosa c'è? L'Italia è questo, ragazzi. Fatevi forza. Non è quello che Cruciani vi racconta ogni sera. E non so ancora. Ma sarà Mister tempo. Senegal? No, Mister Senegal è residente qui, ma non è italiano. Ma almeno italiano. Vogliamo eleggere Mister Friuli, uno che ha il passaporto italiano? La cittadinanza italiana oppure ma no? Va bene, per ma carità. Che cos'è? Ma è una formalità giuridica, la cittadinanza. È una formalità giuridica. Il passaporto italiano. No, è una formalità giuridica. Ma non ci sono, ma insomma, va dai, bene, per carità, è un cittadino europeo, ma un cittadino friulano. Mister Friuli, sti cazzi, poi alla fine, appunto. No. La cosa più interessante invece accade a Napoli, a Neapolis, come zona da Neapolis. Dove, tu te lo ricordi, un ex presidente di Confindustria, alcuni di voi se lo ricordano, sicuramente non tutti, perché la gente non è così, che si chiama D'Amato, no? Un industriale, è un industriale napoletano. Certo, questo signore era a Napoli, si stava per entrare dentro la sua vettura, portava al polso un orologio, un Rolex da 25.000 euro. Con la solita tecnica in mezzo al traffico, un po' gli hanno puntato una pistola e gli hanno sottratto questo orologio. Ora io dico, porca amico, miseria. 25.000 euro di orologio, vabbè, sti cazzi. Il problema vero è un altro. Può avere l'orologio che vuole, se stai a Napoli e ti accingi ad andare nel traffico con l'autovettura, con il tuo autoveicolo, no? Io credo che se hai al polso un orologio, un Rolex da 25.000 euro, io dico, un po' sprovveduto sei, per non dire altre cose, sì o no? Dimmi la verità, sì o no? Hai al polso, traffico di Napoli, un orologio da 25.000 euro, un Rolex, te la sei andata a cercare, amico mio. Te puntano la pistola in faccia, te la sei andata a cercare. Per carità, va benissimo. Sperava che la sua città fosse un po' migliore, no, di come invece viene. Ma te lo viene. Dicono tutti. Non puoi andare con un orologio da 25.000 euro in mezzo al traffico di Napoli, amico mio. E dai. Vediamo, Salvini contro Berlusconi. Dice, bisogna essere seri, non stiamo facendo la squadra del Milan, non si possono proporre Marchionne, Tajani, Montezemolo, Gallitelli. Salvini, vai. Io a Berlusconi chiedo serietà. Un'alleanza c'è se c'è serietà. Non puoi candidare Marchionne, Draghi, Tajani, Montezemolo, Gallitelli. Non stiamo facendo la squadra del Milan. Domenico Spada, beh, uno del clan. Mi sembrano tutti ottimi nomi quelli là, invece. Tutti ottimi nomi di grandissimo anche profilo. Ottimi nomi, quindi... Ma ottimi nomi che la gente dei piai voti, nomi. Non essere messi lì da Berlusconi, sono tutti dice grandi, Gallitelli. Ma grandi dai. Esperti, persone che per ma bene, che mi pare che l'uomo insomma, d'ordine, mi pare Gallitelli, gente l'uomo che d'ordine, sappia. No, dai. Ma voglio dire, personalità per bene, mi sembra, se non altro, molto per bene. Quindi, ormai sei diventato veramente trasversale. Potresti votare tranquillamente Berlusconi, tu lo sai. Sono convinto che tu potresti votare Berlusconi tranquillamente. Stai tranquillo, non ti preoccupare. Allora, Robertino Spada, Robertino Spada, anzi no Roberto Spada, Domenico Spada, il pugile detto Vulcano che va in televisione, prima è stato qui alla radio da noi, sostiene che viene pagato dalle trasmissioni per andare e gli dicono anche di non riferirlo all'esterno. Qua mandano in onda soltanto quello che gli fa comodo, avete capito come, come devo dire che non mi pagano, cioè prendete conto, io devo dichiarare che non mi pagano. Purtroppo questa è la verità, ragazzi miei, però non lo dite a nessuno che mi pagano, mi raccomando, non lo dite a nessuno, perché sennò dopo scoppia lo scandalo, no? Della serie Sti Cazzi, Di Battista, 5 Stelle, ci informa che ha fatto terapia di coppia quando ha saputo che la compagna era incinta. Di Battista, vai! Diciamo dell'imprevista paternità, quando avete dovuto affrontarla, lei e Sara, la sua compagna, lei ha proposto di andare in terapia di coppia, lo consiglierebbe anche ad altri uomini? Sì, questo è stato per me e per Sara è un viaggio bellissimo, quindi è qualcosa di molto molto utile. Che ha consentito, vi ha consentito di conoscerci meglio e di rafforzare la vostra coppia? Sì. E sti cazzi! Ragazzi, va bene tutto, però la terapia di coppia di Di Battista e della compagna non ce ne frega proprio un cazzo. Scusami se te lo dico, non ce ne frega assolutamente nulla. Che hanno fatto terapia di coppia è una delle cose più intelligenti che ha detto da quando lo conosco, quindi mi sembra anche giusto dargli merito. Cosa che ha fatto terapia di coppia? È una delle cose più intelligenti che ha fatto in vita sua. Che mi ha fatto pare, terapia di coppia? Ma adesso chi se ne frega? Lo dico senza polemica, dico mi sembra una delle cose più intelligenti che ha fatto Di Battista nei suoi anni di carriera politica. Mi sembra. Pronto? Signor Di Battista? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani. La disturbo? Cruciani, se la prende nel culo lei e la Radio 24. E perché, perché me la piglio nel culo, scusi? Cruciani, no harask il mercato tlaq. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ma tutta sta gente che chiama e dice io sono fascista, ci vuole il fascismo, ci vuole la dittatura. Teste di cazzo, non potreste neanche chiamare la zanzara se ci fosse il fascismo, teste di cazzo. La zanzara è il primo simbolo di antifascismo. Viva la libertà, viva la zanzara, cazzo. Ok ragazzi, la gente è fuori di testa. Questa mattina a Milano c'è stata una rissa tra un tassista e un cliente, un uomo, forse un cliente, anzi probabilmente un cliente. Alla fine hanno dovuto amputare l'orecchio al tassista. Amputare, ti giuro, amputare l'orecchio. Ma cosa è successo? Ma che cazzo ne so, non si sa ancora. Hanno litigato per qualche motivo. A un certo punto questo cliente ha cominciato ad aggredire il tassista e gli ha staccato l'orecchio a morsi. Mamma mia ragazzi. E gli ha rotto anche il naso. Una roba incredibile. Sicuramente sarà un ascoltatore della zanzara. Pappalardo dice di andare in questura a consegnare l'atto di diffida per i parlamentari che deve arrestare. Ancora questa storia. Sono il generale Pappalardo dei Carabinieri. Oggi è il 27 novembre 2017. Sì. Fra poco mi recherò dal colonnello Di Stasio, comandante provinciale dei Carabinieri. Vi consegnerò un atto di diffida ad arrestare i parlamentari abusivi non convalidati. Dice che sta iniziando l'operazione di liberazione, dice lui Pappalardo. Nessuno se n'è accorto in realtà, se n'è accorto nessuno. Solo lui. Intanto a Palermo, come sai, c'è un preside di una scuola il quale vuole buttare via le statue religiose dall'interno degli edifici scolastici, vuole impedire la preghiera. cioè vuole impedire la preghiera ai bambini dentro la scuola, dice che ci sono delle sentenze, eccetera, eccetera. Senti cosa dice Facci al riguardo. Chi le ha portate? Se le deve prendere, se no le può anche buttare, scusa, eh. Vabbè, ma però, voglio dire, bagno a me cioè, adesso un preside deve avere anche il problema di dove mettere delle cose che lo Stato proibisce. Ma non ti sembra provocatorio? Ma a me sembra un problema ridicolo, cioè è vero che non si può pregare in teoria nelle, dentro le scuole, va bene, ma se quattro ragazzini pregano, sti cazzi, chi se ne frega, se quattro ragazzini si mettono a pregare e se ci sono delle statue religiose, non è che la presenza delle statue religiose dentro un posto significa che tutti dobbiamo essere cattolici o influenza, no, in qualche modo, oppure secondo te va tolto tutto, Parenzo, non ho capito. Boh, cioè, sì, va tolto tutto probabilmente. Ah, va tolto, tolto tutto, qualsiasi simbolo religioso secondo te va tolto. Il crocifisso, ma tolto tutto perché la scuola pubblica adesso, ma no, il crocifisso a me non dà nessuna noia, io ho fatto tutte le scuole pubbliche ovviamente, quindi non ho nessun problema, però sicuramente come negli Stati Uniti si metta la bandiera italiana e la bandiera dell'Europa, anzi neanche quella italiana, sì, basta, quella italiana e quella dell'Europa, cioè togliere si tutto e mettere la bandiera italiana ed europea, dici, togliere ed europea, i crocifissi, esattamente. I simboli, a me non religiosi, a me non offende per nulla, vabbè, anzi, però figurati, tu li toglieresti, ma toglieresti tutto. Tutti i simboli, sì, sì, e metterei la bandiera dell'Europa e dell'Italia, sicuramente. Come certo. In Francia, vabbè, Sura, provincia di Pistoia, sì. Fammi sentire Sura, vai. Buonasera, Sura. Dimmi, buonasera, Sura, dimmi. Stronzetti nervosi. Dimmi, Sura. Io volevo fare un intervento sulle molestie. Allora? Cioè, ci tenevo a capire cosa sono le molestie, perché io quando ero una bimba, ma proprio una bimba, sono stata molestata da un signore anziano, che schifo. Quanti anni avevi, scusa? Avrò avuto 10 anni. Ma molestata che significa? Una bimba. Ecco, in questo caso questo signore mi mise le mani addosso. Però una bimba non ha la possibilità di... Ma mani addosso che vuol dire mani addosso? Spiegami. Le mani addosso fra le gambe e la lingua in bocca, dentro la bocca, la lingua. Allora? E allora l'hai io detto, però, all'epoca l'hai detto non tu l'ho ai detto a nessuno. Io non l'ho detto. Vabbè, ma perché ci stai raccontando questa storia? Scusa, qualcuno ha messo le mani addosso quando c'avevi 10 anni? Sto raccontando questa storia. Sei ancora traumatizzata? No, no, l'unica cosa mi è rimasta, scrivo romanzi cattivi. Dove come? Non scrivi? Io scrivo romanzi cattivi, dove cerco di trovare il lato oscuro, che probabilmente è in tutti noi. Perché ma che ne sai che questa cosa qua ti viene da quell'episodio lì, scusa? Perché ho cominciato a scrivere dopo quella cosa lì, forse l'avrei scritto ugualmente. Però volevo vabbè, dire, ma perché ci racconti sta roba? Non ti racconto stato... questo, perché se ora io ho 51 anni, allora? Una persona mi mette una mano sul culo, io gliela so levare, non ho nessun problema, no? Dunque? Quindi voglio dire, un conto è la violenza, se un uomo ti violenta, allora va bene. Ma a volte certe signore parlano di molestie quando uno ha fatto un apprezzamento, insomma, non va credo. Va bene, Amedeo da Roma, non c'è da dire un cazzo. Amedeo da Roma, vai, Amedeo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Amedeo da Roma, ma Amedeo il napoletano, ci tengo per il secondo commento. La prima cosa che volevo dire è per Parenzo sul Mister Friuli. Se si chiama Mister Friuli, dovrebbero essere del Friuli, altrimenti avrebbero detto Mister Mondo. No, non è manco italiano, non è manco italiano. È del Friuli, vive in Friuli. Non è italiano. È del Friuli, vive lì ed è un campione di una squadra locale di quel posto, quindi è friulano. La prossima volta mi presento a Miss Brasile, la stessa cosa. Beh, dipende, lei non mi pare ne abbia le caratteristiche. No, però Parenzo vuole dire, se tu vivi in Brasile, che ne so, da 5 anni, magari sei un figo della Madonna, potresti presentarti tranquillamente a... Ma non vedo problemi. Questo è... Non è per i residenti del posto, è per Mister Friuli, non è per... Ah, quindi bisogna, da quanti anni bisogna essere, no, qual no, è il friulano, Doc? Bisogna essere del posto dove si è Mister. Enzo Reggio Calabria, Enzo Reggio Calabria, vai. Eccomi, in questo momento a Bologna. No, niente, io volevo, perché ormai il termine bastian contrario è stato modificato con Parenzo, perché si chiama David Contrario. Voglio dipende, dire dipende. Che vuol dire, scusa, spiegami. Voglio dire che no, nel senso che lui con le diffonde a tantissime, vedi ieri sera la storia con Cateno, no? Cioè, Enzo, io, che cosa vuoi dire? Spiegami, cosa vuoi dire? Che Parenzo è un ebreo, no? Ed è un discendente di quei padri che hanno fatto il più grande evento di ingiustizia al mondo. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Gli ebrei, no, l'ingiustizia, no, le cose. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Imbecille, che dici? Cretino, che dici? No, cretino, vabbè, dai, lo accetto da te, un complimento. Ma che vuoi dire? No, io non ho capito, Enzo. No, che cosa vuoi dire? Ma volevo dire che Parenzo è praticamente uno di quelli che il suo senso di giustizia è pari a quelli che hanno scelto Barabba. Barabba, siamo arrivati a Barabba. Barabba, perfetto. Fermo, perfetto. Fermo, fermo. Ehi, hey, Cruciani, quanti soldi devi avere? Da lì, quelli che sono solo. Ora che la puttana è andata a fanculo. Parenzo. Ehi, hey, Cruciani. Ma che è successo? Ma perché scusa, sei arrivato a fanculo? La zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara, da fa l'80024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo, arrenditi, noi fascisti siamo tanti e stiamo crescendo, prepara le valigie. Stiamo arrivando. Prepara le valigie, Parenzo. Io mi ritrovo a dover razionare e centellinare le vostre puntate settimanali con i podcast registrati, perché io il fine settimana non voglio rimanere senza zanzara, sennò vado in crisi. Mi avete rovinato. Siete peggio della droga. Andate a fare in culo. Ragazzi, tipi da zanzara. Il puttaniere ieri sera, vai. Tipi da zanzara. Adesso generalmente frequento il Maxim, sì, cioè il club di Chiasso. Bene, poi? Poi beh, girato bene o male, ho girato un po' dappertutto. Però sì, adesso ultimamente, negli ultimi 3 anni, sì, sono sempre lo stesso, al sì, Maxim. Hai speso una fortuna in puttane, o sbaglio? Sì, un appartamento almeno. Un sì, appartamento? Sì, certo. Sì, sì, sì. Cioè, scusa, in quanti anni, da quanti anni che frequenti le prostitute? Praticamente 20 anni. Da 20 anni, 20 anni di prostitute. Quante, sì, volte, sì, a quante volte a settimana? Dalle 3 alle 5. Ho fatto anche giro intorno al mondo, ho viaggiato, quindi ho scopato anche Brasile, Cuba, Thailandia, Santo Domingo. Sempre pagando, ovviamente, Europa, mi pare di capire. Sì, pagando e sì, tante volte anche gratis, ma diciamo, sì, che l'80% delle volte pagando, un 20% direi il 99% gratis, mi pare. Conta, no, uno che schifoso che paga da 20 anni per fare l'amore con qualcuno, cioè una roba incredibile. Ma perché schifoso? Ti senti uno schifoso, schifoso tu? Uno ti non senti è in uno grado schifoso di conquistare, aspetta, una donna anche per una serata da, lo voglio, così, lo voglio chiamare Pietro, lo voglio chiamare Pietro, perché altrimenti mi viene difficile. Chiamalo miserabile. No, Pietro. No, miserabile sei te, che non te la dà neanche tua moglie. No, sei anche uno sfigato che in televisione ieri sera ha dato dei miserabili. Noi che siamo in numero, sì, l'ho detto uno, ieri, che andiamo con le, l'ho detto con le ieri sera, certo, in diretta televisiva. Ho detto miserabili chi va con le prostitute, senza ombra di dubbio. L'ho detto, mica se no, lo dico, no, solo alla radio, lo dico ovunque. Perché non te la dà neanche tua, ma no, ma adesso quello che ne sai non tu, non preoccupare, non lo puoi sapere, preoccupare. Non te la dà. Ma non lo puoi non sapere tu, Pietro. Vergognati. Non ti preoccupare, sporcaccione. No, sporcaccione, non ti preoccupare, sporcaccione. Di noi, perché lo stipendio lo lasci a tua moglie e te la dà sporcaccione. Quando vuole lei. No, beh, ragazzi, però non ti preoccupare. Io volevo sporcaccione, aspetta, non ti preoccupare. Ma non mette uno sporcaccione, vergognati. Vabbè, scusami. Vergognati. Pietro. Sei comunicativo. È normalissimo. Se uno non me la dà, io non perdo tempo, me la cerco. Non ho schifoso, è evidente che non te la danno. Sei una persona ributtante. È evidente. Ma che ne sai? Ti sei visto allo specchio? Vabbè, sì, fermi, come ragazzi, apri bocca. Ma non dal punto di vista vuoi anche fisico. Io non lo so che faccia lei abbia, ma da quello no, che no, dice no, è una persona. Ma anche dal punto di vista mentale, da come apri la bocca. Vabbè, ho lei la... è una tu persona. Non conosci il mondo delle escort. È una... delle ma assolutamente no. Lei è una persona ributtante. Sa cosa vuol dire ributtante proprio? Se è gratis è meglio, anche tu sei uno sfigato perché tua moglie non te la dai. Ma non questo è, lei sta insultando, io sto dicendo semplicemente che lei ha bisogno di pagare per avere. No, no, io non ho bisogno, io non di ho mai pagato in vita avere mia, capito? Io non voglio rotture di coglioni, io, che è diverso di pagare, posso solo pagare lei io, me la posso una io, persona me purtroppo sola gratis. tipi da zanzara. Allora, caro David, allora. Dove andiamo? A Trieste da Maria, vai. Dopo questa battaglia col puttaniere che hai definito miserabile, eccetera, eccetera. Quello, l'hai fatto incazzare. Ma l'hai fatto incazzare, quello giustamente vuole spendere un appartamento, ha speso 600.000 euro in tanti anni per andare a puttane, saranno affari suoi, no? Una persona orrenda. Ma perché una orrenda? Orrenda. Maria, vai, dimmi. Eccomi qua. Ciao. Volevo dire, che cosa ci azzecca un ragazzo nero a fare il mister di Friuli Venezia Giulia? Non ci azzecca niente. Vorrei dire a Parenzo quante di queste possibilità che ha lui di andare a fare quelle stesse cose in Israele, da Netanyahu a Tel Aviv, una roba del genere. Non ho capito, scusa, che c'entra adesso Israele e Tel Aviv, signora Maria? Ma sì, vorrei sapere da Parenzo quanti extracomunitari ci sono in Israele, mi piacerebbe saperlo. Ma cosa vuol dire? Che lui ma che discorso è? Il difensore di tutti questi extracomunitari. Ma scusami Maria, ma a te ti dà fastidio il fatto che nella tua regione leggono Mister Friuli Nero? Sì, mi dà fastidio perché stamattina sulle pagine del giornale locale era fotografato una pagina in grande, in maniera maxi. Tutto questo qua che io dico cosa c'entra? Non lo trova un bel ragazzo questo negro? Non me ne importa, guardi meno. Io vorrei sapere che cosa c'entra cosa la friulanità. Si vede che suo nipote è brutto e non sa giocare a basket bene. Invece questo ragazzo di colore che giocare a basket non me ne frega niente. È un bel ragazzo, hanno ritenuto il voto popolare ha ritenuto fosse rappresentativo. Ma non lo trovo bene. A differenza di suo nipote che evidentemente non sa neanche togliersi le caccole dal naso. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master, deve star zitto e lavarsi la bocca prima di pronunciare queste cose. Si vede mio però, nipote è un ragazzo laureato rispetto al senegalese in Inghilterra. Intelligente di quello che fa il basket, capito? Voglio dire alla nonnina, la simpatica nonnina che lotta per il nipote, va benissimo. No, io non sono, guardi, mio nipote, glielo assicuro io, è stato cara nonnina. Si rassegni, sono i nuovi italiani. È bravo, benissimo. Evviva il nipote della nonnina. Vuole dire che fa schifo, che è brutto, probabilmente. È più bello il nero. Sicuramente, altrimenti lo avrebbero eletto. Invece hanno eletto questo ragazzo. Ma mi faccia nipote. Il piacere che vada a fare basket tutta la vita. Nonnina del Friuli, mi dia retta. Mangi il fico. Il fricco, che è un formaggio molto buono, peraltro. Cucini la polenta, nonna, e si rassegni al fatto di quello che dice lei. Ha capito? Sono felice. Maria, fatti abbracciare fortissimo. Sono i nuovi italiani. Si rassegni, cara. Anzi, i nuovi friulani sono. Si rassegni. Ma che cosa vogliamo? Un'Europa tutta di neri noi? Ma quale Europa di neri? Ma signora mia, ma succursale dell'Africa. Ma non vogliamo neanche un'Europa fatta di nonnine come lei. Non vogliamo un'Europa fatta di nonnine come lei, capito? No, io non sono pazza, ragiono molto bene, si ricordi, ragiono forte, pazza, meglio di lei. Ho detto... Invece che lei dica tutte sciocchezze tutte le sante sere. Basta con queste storie. Scusa Maria. Sa cosa dice Oscar Giannino? Basta. C'è la nonnina di Casa Pound, cioè abbiamo la nonnina di Casa Pound. Ma che ne sa questa di Casa Pound? Maria, vabbè, la nonnina di Casa Pound. Scusi signora, ma questo ragazzo questo ragazzo nero non le piace nemmeno un po', un bel ma fisico. Chiamiamolo per nome, no, perché manco per niente. Ma sarà bella lei, ma sarà bello suo nipote, scusi. Sono rimasta allibita. Ma dove andremo a finire? Come finiremo noi friulani? Ma che cosa le piace di avere la succursale dell'Africa in tutta Europa? Questo le piace a lei? Ma quale Africa in Europa? Mandiamoli tutti in Israele, basta. Mandiamola da Netanyahu e vedrà che bello. Li tengono tutti a Gerusalemme. Tel Aviv. Basta. Ma cosa ne sa lei di Gerusalemme? Vai, lei che non si è mai mossa dal Friuli, non sa niente, non sa. All'attacco, cosa dice? A testa bassa, Maria, all'attacco. Comunque all'attacco, è Giuliana, è vero, non è friulana. Io condivido tutto quello che dice Cruciani tutto il giorno, perché io Radio 24 la seguo sempre, tranne alcune trasmissioni. Tipo? La seguo tutta la pagina economica. Tipo, cosa ne sa di economia lei? Barisoni. Gli altri giorni, insomma, ma tutta cosa la capisce lei di quello che dice Barisoni? Come? Capisce, secondo me, cosa capisce di quello che dice Barisoni? Niente, perché Barisoni ha un linguaggio ottimo, popolare, alto, ma lei cosa sa lei di Barisoni? Guardi, se vuole, la schiaccio come una serpe, guardi. Maria, l'attacco, ciao amica mia, ciao, ciao, ciao, ciao. Dovete morire tutti all'inferno, bastardi, stronzi, merdosi. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Niente, mi feci fare un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con F e Ball. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. La Zanzara. Naturalmente. Guarda, io ti denuncio, eh. You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up at the witching hour? Oh, Cruciani, vedi di non rompere i coglioni a quel ragazzo che fa il centralinista e che magari adesso gli fa pure perdere il lavoro. Stai muto, hai beccato uno che ti ha fatto stare zitto e ci ha fatto ridere a tutti, stai muto, no? Ehi, Cruciani, com'è sta storia che fai licenziare quel ragazzo dell'Eni? Mica sei una bella merda, eh? Una volta che uno ti fa star zitto lo fai licenziare. Sei una bella merda. Invece onore e 10 minuti di applausi al Nanetto. Ieri ha fatto stare zitto quel corrotto di Taormina, che è ancora in giro che cerca l'assassino di Cogne. Che cosa, mio nipote? Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. Deve star zitto e lavarsi la bocca prima di pronunciare queste cose. Sa cosa dice? Sa cosa dice Oscar Giannino? Basta, basta e basta. Oh, basta! Basta! Basta! Basta! Oh. Oh. Eccoci qui, ragazzi! Eccoci qui! Allora, ricevo questa missiva, caro David. Sono nauseata dal continuo messaggio di mercificazione del corpo femminile che diffondete ogni sera. Chi va a prostitute ha un concetto della donna di usa e getta. Le donne, anche le prostitute, sono esseri umani, non sono panini da fast food. Il signor Cruciani avrà ricevuto una pessima educazione e va ad ingrossare le fila di quegli uomini che, considerando le donne alla stregua degli oggetti, arrivano anche ad ucciderle. Pensa che intelligenza questa persona, no? Ma prosegue la missiva. Ho notato che in questa trasmissione chiamano solo uomini di dubbia moralità e spesso di evidente disagio mentale. Questo anche è molto vero. È davvero vergognoso che la radio di Confindustria permetta questo scempio di moralità. Anche questo è vero, rimane infatti un grande mistero. Non posso che concordare. Avrei anche pensato di intraprendere un'azione legale contro di voi. Benissimo. Ma poiché non ho tempo, non me lo posso permettere. E anche questa è una buona notizia, una in meno. Miserabili! Adesso sta lettera mi ha fatto andare una cosa per traverso. Spero solo che prima o poi decidano di chiudere questo schifo di trasmissione che rovina il palinsesto di Radio 24. Ma sai, adesso chiudere proprio magari no. Ma dai, su, ma dai. E tanto per gradire, alle orecchie di questa signora, perché c'era un WhatsApp con la figura di una donna. Io andrei da Michele da Napoli subito per gradire, per dare un piccolo assaggio ancora di Zanzara, di cos'è questa trasmissione. Offrirei subito ulteriore testimonianze, perché qui leggo, caro David, tu non puoi leggere perché non sei a Roma, una sola riga. Va a puttane 3-4 volte la settimana. Qui è tutto trasparente, la gente chiama e si dichiara. Michele da Napoli va a puttane 3-4 volte alla settimana. Tutto chiaro, tutto trasparente. Sappiamo solo questo, non sappiamo nient'altro. C'è pochissimo filtro. Questa signora che ha scritto questa cosa è una deficiente. Basterebbe spegnere la radio e non romperci i coglioni, Michele. Invece no, sta là ad ascoltare, perché anche a lei, anche a questa signora che ha scritto, piace sentire la verità. Magari ogni tanto, no? Sente pure qualche piccolo, come si dice a Roma, friccicorino. Là ci vuole la nerchia. Ecco l'altro, sentilo. Michele, oh, e dai. Ciao, buonasera. Dimmi. Senti, ma io ho chiamato però io voglio dire un altro argomento. Ma non dovevi andare, non eri quello che deve andare a puttane, scusa. Sì. Però voglio dire un'altra cosa. Quella signora che ha chiamato prima non ha ragione, tutti questi neri. Che cazzo dobbiamo fare qua in Italia? Perché non se ne vanno al paese loro? Quindi questo qui non solo è un miserabile perché va a prostitute, ma è più anche un razzista. Il quadro è completo, mi pare. Perché non te la porta a casa tua? Altro argomento noto, benissimo. Poi. Sì, che non te la porta tutto a casa tua, visto che sei un procio. Vabbè, questo è un altro discorso. Anche il quarto insulto, benissimo, perché viene considerato un insulto pure quello, ottimo. Ha messo insieme tre cose diverse. Tre cose diverse. Michele, da dove vogliamo partire? Avanti, la sua storia, avanti, vediamo. Da dove vogliamo partire, forza. Michele? Sì. No, da dove partiamo? Non voglio dire più. Ma perché vai a puttane? No, si è offeso, perché si è offeso. Lo schifoso si vergogna, lo schifoso, giustamente. Perché ti vergogni? No, non mi vergogno, altrimenti non chiamavo. E allora perché? Dimmi perché vai a puttane. Perché mi voglio scopare. Vabbè, ho capito, ma questo abbiamo capito. È bello. Quante volte vai a settimana? Semplice. Quante volte vai? 3-4 volte. Ma dove? Per strada? Michele? No, vado in albergo. Sì, ma ho capito, ma dove le prendi queste qua? Dove le raccatti? Dove le affitti? Dove contratti? Affitti, che termine terribile. Come fosse una macchina, ma terribile. Si affitta, terribile. No, è un affitto, brutale, cioè. Proprio brutale. Allora, Michele? Oh, Michele? Sì, per strada. Sì, per strada. Vuoi parlare o non vuoi parlare? Non ho capito. Sì, sto parlando, no? E allora parla, amico mio, parla. Un po' di vergogna, no? Ti sei vergognato? Improvvisamente ti sei vergognato? Sentirsi una persona sporca. Me ne porto in albergo. Ma non si sente una persona sporca, lei? Proprio sporca. Oh. Non ti senti una persona sporca? No. Franco da Napoli, vai, restiamo a Napoli. Michele, vai a dare una ripulita, vai. Franco da Napoli, vai, Franco. Ciao Giuseppe. Dimmi. Chiedere una cosa, ma... Quel collega tuo che sta vicino a te, lo sai che il mestiere più antico del mondo qual è? Qual è? Lo sai che... Sì, ma lo sappiamo, dai, però andiamo oltre questa cosa qui, Franco, dunque... Ok, poi volevo farti i complimenti, Giuseppe. No, non c'è bisogno, dimmi, perché no, cosa? No, per il fatto di ieri che hai detto delle fake news e della politica è tutta una bugia, tutti ma i ragazzi, giorni. Ma sono i primi che accusano i grillini, bravo. Berlusconi e Renzi, sono dei grandi raccontatori di balle, ma è normale che sia così, la politica è un grande racconto anche di cazzate, cioè propaganda, la propaganda è diversa dalla falsità, però. No, proprio stravolgono le cose. Dunque propagandano fake news a iosa, a mazzetti. Ma è normale che sia così? Non dico scusa, niente. Dire ad esempio che Silky è contro i mercatini di Natale. Aspetta. Non ho capito. Non ha chiesto le dimissioni della Boschi, invece ieri ha chiesto le dimissioni solo di Cateno. Perché non ha avuto il coraggio? Ma perché dimettiti Boschi invece di quello. Ma io l'ho detto già all'epoca, vada a riascoltarsi, io lo dissi già all'epoca, anche se non è direttamente coinvolta, dissi già all'epoca che per fare chiarezza si sarebbe dovuta dimettere. Va bene, René da Milano, vai René, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto? Dimmi, dai. Insomma, con qua a parlare io. con dai. Parenzo, due storti Parenzo. René, forza, allora, dai, non mi far arrabbiare, forza, no, dimmi. Giuseppe, dimmi. Ma passano a Parenzo, però. Sì, ma parla come mangi, però, devi parlare come mangi. Cioè, non, ah, no. io Giancarlo da Milano, Giancarlo da Milano, vai. Buonasera, dimmi. Sono un vecchio signore, sì. Volevo solamente dire due parole al signor Davide Parenzo. Sì, volevo ecco, dirgli grazie. Che dovrebbe essere più rispettoso nei confronti sì. delle donne. Usa sempre un linguaggio maschilista, macista. No, veramente, non veramente, non mi pare. Forse sì. Giancarlo. Che quando dice conquistare, conquistare significa prevaricare. Questo è immorale. Davide Parenzo si comporta in modo immorale nei confronti delle donne. Tutt'altro, esattamente. Il contrario, conquistare come vuol dire volgare. È un uomo volgare, volgarissimo, molto meglio eventualmente è un rapporto con una prostituta, è un do-des, io qualcosa e lei dà qualcosa a me. Lei generalmente non dà niente, quindi anche, Carlo da Roma, vai Carlo. Ciao, buonasera. Dimmi Carlo, dimmi. Questo non promette nulla di buono. Dimmi non Carlo. Non promette nulla di buono. Ha parlato il vomito, ha parlato il vomito. Sì, però Carlo, devi farti capire questo bene, devi farti non capire bene. Nulla di buono questo qua. Vai Carlo. Va bene, mo brucia. Perfetto Carlo, dimmi. C'avevo auricolare, Dacci tua con sta auricolare, dai. Dacci vostri, senti. Bruciava, niente, è tutto contento Parenzo che hanno fatto Mister Friuli. Mister. Beh, in inglese si dice Mister. Ma perché il negraccio? Perché il negraccio? Non ho capito. Perché è meglio. Negro? È negro? Come lo chiama? Ma tu hai detto il negraccio, perché il negraccio? È negraccio, sì, però. Ma quello è tutto nero, che cazzo stava facendo bianco e nero, la fotografia non si vedeva. Veda, caro razzista, negraccio, la parola negraccio, come lei mi insegna avendo frequentato l'Accademia della Crusca, negraccio è dispregiativo. Io ho fatto le scuole alte, pare. No, lei non ha fatto, poteva buttarsi dal terzo piano. La parola negraccio, la parola negraccio. Scusa, sta zitto, è dispregiativa, hai capito? Perché in Israele vanno cacciare via 50.000 extracomunitari? Non cacciano nessuno, perché mi segnala perché l'ottimo Hannuna che in Israele accolgono i rifugiati sudanesi, ad esempio. Soldi come la comunità europea, e noi ci rifiutiamo se extracomunitari. Israele accoglie i rifugiati sudanesi. Israele accoglie i rifugiati sudanesi. Senti, adesso non andare là, la realtà è questa, vogliono cacciare 40.000 persone, punto e basta. Israele accoglie i rifugiati sudanesi. Dai, qui noi basta che parlano dei soldi, si piamo, sa, e li buttiamo, sa. Mao, micio, senza l'alleri non se l'illera. Ma capisci? Carlo, cosa volevi dire su Mister Friuli? Va bene che la giuria che quello l'hanno fatto, quel negraccio, erano tutti froci. Ancora negraccio. Come erano tutti froci? Che c'entra? Erano tutti froci la giuria, perché tanto nel Veneto, io lavoro col Veneto. Quello è Friuli, però. Quello è Friuli, però. Capito? È Friuli, è Friuli, però. Lei se fa il camionista, la geografia dovrebbe conoscerla almeno quella. Quello è il Friuli, Somaro, almeno la geografia, visto che fa il camionista. Pordenone che si è toccato, già è Friuli, capito? Stupida creatura. Non è Veneto, sciocco. Sciocchino. Il padre della geografia. Sciocchino, non è Veneto, non è Veneto Pordenone, sciocchino. Noi vanno laggiù, capito? Non li vanno. Era tutta le froci, come te. Eccolo qua. Ma che c'entra? Che c'entra? Non ho capito. C'entra, perché se sono froci vanno per negri. Ma perché? Vanno sempre a cercare i negri. Mamma mia. Ma perché? Non è vero, Carlo. Cioè, non è vero. Secondo me, tu qualche passato omosessuale ce l'hai avuto, però. Ma sicuramente. Sì. Ma sicuramente. È conosciuto per fare il trenino, ma sicuramente. Non ho mai passato. Passato. Secondo me nel mondo dei camionisti qualcuno mi ha detto che tu ogni tanto andavi per Piazzole. Ma sì, ma lo chiamano Carlo, il re del trenino, dai. Subito dopo il Zoccole ci stiamo noi, guarda, figurati un po', subito dopo il Zoccole vengo e vedremo noi, la lingua che ci avemo. Sì, però nel mondo però, mi dicono che vai per Piazzole ogni tanto. No, non ci vado. Ma sai, forse se c'avevo una trentina d'anni in meno, ma adesso a 60 anni, mando cavolo, vado più, capito? Cioè, basta, tu vorresti cacciare... Ma tu vorresti... Chi mi conosce, sono un bel fisico, che sono 80 kg, alto 1,80, occhi verdi, però ho 62 anni. Però vorresti cacciare tutti i negri dall'Italia, diciamo la verità. Sì, sì, no, perché fanno, ma mica solo i negri, intendiamoci. E chi? Tu mica so, tutta. Tutti. L'Italia è degli italiani. Basta, ah, solo gli italiani. Si riprende tutta l'economia, si riprende tutto. A rimane solo Carlo. Non ci servono gli extracomunitari per pagare le pensioni. A me figure, ma manca tanti 5 anni per una pensione. Capito? Che me pagano questi a me? Vabbè, capito? Carlo, comunque la realtà è questa. Tu vorresti cacciare purtroppo tutti. Purtroppo gliela pagheranno loro. Tutti, sì, tranne... perché non ci avevo, ecco, comincio da io, metto in prima fila Parenzo. Mamma mia, sai quanto sarebbe bello? O metti su il coso di Otranto, la punta di Otranto, gli dai in carcia al culo o butti di sotto. Comincia. Però è italiano, dici. È italiano Parenzo. Appunto. Ho capito, però far tifo per loro. Ma per chi? Al tifo per loro. Al tifo per loro. Che dobbiamo fare? Ma ciao Carlo, Carlo. Per tifo per loro, dai. Ciao Carlo, ciao. Ciao. Giuseppe. Senti, il camion. Come fa, trombe, come fa? La zanzara. Pare, io per farmi 4.000 euro mi devo fare 3 mesi di scippi. Allora ragazzi, c'è un signore, un emerito sconosciuto, che però voglio presentarvi. Un signore che si chiama, sapete, noi siamo specializzati nel trovare anche personaggi che sono sconosciuti, che possono essere invece molto utili per il nostro dibattito, gente comune, gente in questo caso del mondo delle professioni, un avvocato addirittura cassazionista, cioè un avvocato che è presente anche alla Corte di Cassazione, un tale di Palermo che si chiama Rosario Imbergamo, è di Palermo, però si chiama Imbergamo. Nel suo profilo Facebook costui scrive: è come in Israele scacciare gli africani dall'Italia. E poi dice: una volta il senza collo, cioè Maurizio Costanzo, diede il culo per fare eleggere Miss Italia una negra. Mamma, oggi Mister Friuli, un negro. Miss Italia come Mister Friuli debbono rappresentare il meglio delle caratteristiche somatiche dell'italiano o del friulano. Cosa c'entra il negro? Così scrive, cosa c'entra il negro. Poi tra le altre cose dice che bisogna fare un altro papa, che questo è indegno, eccetera, eccetera, è incapace per natura. E poi parla così della Kienge: gorilla, ritornatene nel tuo Congo, tra la tua gente di scimmie. Pronto? Avvocato? Chi parla? Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, salve. Ma lei perché sta chiamando con un numero sconosciuto? Oh, mi scusi avvocato, semplicemente perché dal centralino non fanno il numero intero. Non va è... bene, è pubblicità, non sono interessato. No, non è pubblicità, non è pubblicità. E che cosa è? Avvocato, no, io sono, mi chiamo Cruciani. Di Radio 24. Sono di Radio 24, buonasera. E allora? No, è per carità, assolutamente. Non siamo alla radio della Confindustria, più autorevole di così. Io sono Parenzo, buonasera. Sì, la sto sentendo. No, io ero... No, solo per dire che è la Confindustria, cioè la radio della Confindustria, non è una radio bubù qualunque. Comunque, ma ecco, tutti sono bubù qualunque, quindi la Confindustria non mi dice proprio nulla. Cioè, per lei che cos'è la Confindustria? Scusi. Incredibile. La Confederazione degli Industriali. Ecco, appunto, gente seria, no? In teoria. Questa è la radio della allora Confindustria. Dunque, che cosa vuole lei? No, scusi, avvocato, allora. Io ho letto alcune cose che lei ha scritto su Mister Friuli, per esempio, no? Sì. Ecco, ma che ne pensa di questa elezione di un nero? No, io non posso parlare con lei perché lei sta violando la privacy. E tra l'altro, io posso rintracciarla a lei perché basta chiedere il tabulato, certo, alla procura. Certo. Ma il tabulato, sono di Renzo Cruciani. Telefonare in chiaro, telefoni con un numero facilmente visibile. No, io scusi, le rispondo, avvocato, avvocato, qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Mi spieghi qual è il problema? Io mi sono presentato. Fatemi il numero scoperto, dai. Fatemi il numero scoperto. Questo qua è schizzinoso, vai. Ciao. Avvocato, eccoci qua. Sì, dica. Allora, io ho letto una cosa. Lei ha detto che Mister Friuli non si può eleggere, diciamo, un negro. Come mai? Ma è molto semplice. Come non si può eleggere una Miss Italia che sia una negra, perché Miss Italia significa che si sta scegliendo la persona che rappresenta le caratteristiche somatiche di quel popolo in quel momento storico. Io, se mi chiamano, che se mi fanno Mister Palermo, Mister Catania, io subito mi immagino l'uomo prettamente siciliano, magari con i baffi, ma sicuramente non un negro. Beh, non ha nulla a che vedere. Che facciano Mister Africa, e allora eleggeranno un negro. Se dovessero fare Mister Africa, per esempio, ce lo vede un bianco, uno svizzero, oppure che so, un austriaco, un tedesco, Mister Africa, non ce lo vede, perché si mette subito a ridere. Non c'è, avvocato, scusi un attimo, ma lei utilizza la parola negro in maniera assolutamente normale, diciamo, no? Cioè... Ma negro è normale, Niger, la Nigeria, Niger, Congo, Niger è sempre là, negro è la razza negroide, per cui è una questione assolutamente normale. Per lei... La razza? Aspetta, per lei sono, quelli del continente africano rispetto all'Occidente sono un po', diciamo, indietro, sono un po' inferiori, si può dire questa cosa, avvocato? Non c'è dubbio, non è volontà loro, ma non c'è dubbio. Cioè, non c'è dubbio? Noi rappresentiamo la civiltà occidentale, quella che fu, lui poi, che diede la stura, la nostra grande Grecia, e loro? La nostra cultura è quella di Aristotele, è quella che conosciamo tutti, quindi non ha nulla a che fare con e loro invece africano. Loro invece, dice, sono meno intelligenti, diciamo la verità. Ma a me non interessa, io non ci voglio avere a che fare, no, quindi cioè non vuole avere a che fare. Se sono intelligenti, che lo mostrino a casa loro, e che diano l'esempio al resto del mondo, a dire ci siamo, stiamo facendo qualche cosa. Lei dice che quelli che stanno in Italia andrebbero cacciati tutti gli africani. Ma non lo dico io, lo dicono tante persone, io la penso così. Però ecco, dovremmo fare come Israele, no? Lei ha scritto, cioè come in Israele, scacciare gli africani dall'Italia. Ma Israele ha fatto benissimo, perché qui la situazione non sono due parole. Anzitutto, io a che titolo lei mi sta chiedendo tutte queste cose? No, è interessante. Radio 24, la Zanzara. Ma Radio 24 a cosa tende? Cosa vuole? Tende? A nulla. Aspetta, a nulla tende. A nulla. Scusi un attimo, a capire. Avvocato, scusi un attimo. Lei però ha dato anche ma io sento tante persone che parlano. No, siamo due. Cruciani e Parenzo. E chi è l'altra persona che sta signor gridando? Parenzo. È Parenzo, che è molto incazzato. Signor Parenzo, si stia calmo, perché non gli sta bene, se ne va. Bravo. Se ne vada anche lui. Bravo. Ma chi è che starnazza? Chi c'è dietro chi che parla? Starnazza tua sorella, pezzo di fesso che non sei altro. Chi non starnazza lì? E chiudi il telefono, perché a telefono appena bravo, telefono l'altra volta, bravo. Ti denuncio per stalking. Bravo, avvocato. Che gli dici? Scusi, avvocato. Aspetta un attimo solo, adesso lo richiamiamo, questo ci ha attaccato il telefono in faccia, è una cosa incredibile. Altro dai. Che avvocato di Cassazione, avvocato di Cazzazione, Rosario di cazzate. In Bergamo. Io devo dire due paroline, lui e a quell'altra lì che starnazzava sotto. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo. Vibratore, vibra, non ti fermare. Parenzo. Vibratore, vibra, non ti fermare. Vi piace un mondo così? Vive nel cassetto, troppi sogni da realizzare. A me fa cagare. Noia galoppa, ti viene incontro la tecnologia. Parenzo. Se la carne è scarsa, già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. La Zanzara. Gli accrosciani e che Yekil, ya halluf, capito? In italiano, cani più cinghiali, ma sei proprio un cinghiale. Ciao re della radio. Tu sei il re della radio. Se tu vai via di questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miappi, di fighe. Ospedale Bolzano Krankenhaus Bolzen. Sì, buonasera, ospedale San Maurizio? Sì. Sì, no, in italiano, sa, ogni tanto si usa anche l'italiano, oltre che il tedesco. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Beh, siamo in Italia o siamo in Germania? Non ho capito. Siamo in Südtirol, in Alto Adige, parliamo tedesco e italiano. No, attenzione. Italiano e tedesco dovrebbe essere. Siamo, andiamo avanti. Siamo in Italia, non siamo in Sud Tirolo, siamo in Italia, prima cosa di tutto. Poi siamo anche in Sud Tirolo, perché sì, sennò esatto. Mettiamo le cose a posto, va bene. Lei ha bisogno di qualcosa o solo voleva solo sapere le lingue che parlo? Parenzo, mandali a cagare. I tuoi soldi spendili come ti pare. Parenzo, fai letteralmente schifo. Te e il tuo vestito sartoriale. Fai veramente schifo. Tu predichi bene e razzoli male. Fai schifo. Mamma mia, te con quel tuo vestitaccio. Speriamo ti prenda fuoco appena te lo metti. Accidenti a te, quel vestito, sai dove te lo devi mettere il vestito? Con la crucetta, tutto nel culo, capito? Come si chiama sta avvocato? Rosario si chiama, Rosario in Bergamo. Rosario, no, perché ti ho già mandato tutto all'onorevole Chiang. Rosario in Bergamo. Ma perché te ne frega di dare la roba alla Chiang? Ma l'ho scritto, gli uomini della Chiang, i collaboratori più stretti. Mi sono perso il nome dell'avvocato, caro Davide. Ha detto forse scimmia Cecil? No, ha detto caro. Gorilla Rosario in Bergamo si chiama, caro. Chiaro amico mio. Allora, gorilla, ritornatene nel tuo Congo tra la tua gente di scimmie. Poi ha detto pure un'altra roba. Ma perché devi dare la roba agli Rosario agenti? Rosario in Bergamo, procedere, grazie. Collaboratori di Cecil Chiang, vi ho mandato tutte le informazioni necessarie. Si prega procedere con il cosiddetto avvocato cassazionista. Andrea, si chiama Savona, Rosario vai. In Bergamo, grazie ai collaboratori di Cecil che mi stanno scrivendo in questo momento. Vabbè, buon lavoro. Andrea da Savona, dai. Buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Buonasera a tutti. Dimmi. Oh. Ditemi voi. Hai chiamato tu, Andrea? Dai, forza. Ah, sì, ho chiamato io, ma siamo già in diretta? Ma che sei, deficiente? No, dove siamo? Sei? Al bar? Dove siamo? A casa tua a chiacchierare? Non ho capito. Non lo so, magari era la fase precedente. Ma la fase vabbè. Che? Ma quale fase? I preliminari. I preliminari, cos'erano? Dai, cioè... Beh, visto l'argomento si può parlare anche di preliminari. Allora? E quindi volevo tirare fuori l'argomento di nuovo, puttane. Vai, forza amico mio, forza, coraggio, dai, dimmi, forza. Visto che se ne è parlato così tanto nella scorsa puntata di ieri, se ne parla ancora adesso, io ci ho messo una canzone sopra, ho fatto una canzone sopra proprio sulle puttane. Hai fatto una canzone, non sei il primo a fare una canzone sulle prostitute, è una roba molto vecchia, una roba già utilizzata. Comunque vai, ti diamo credito, vai, forza, dai, forza. Ma questo è proprio un invito, che diverso. Vai, un invito, bene. Dimmi. Occhiali da sole, giubbotto tamarro, jeans attillati, camminata da ramarro, da via Le Dante a piazza Cavour, inizia ora il nostro puttan tour, testa alta e guardiamo avanti, cerchiamo tipe magre con le tette giganti, e anche se il viso non è fenomenale, basta che siano del gran maiale, eccone una che appena Renzo. Mi vede, mi invita al marciapiede, poi pensi decisa è tutta d'un pezzo, puttaneggia, dice il prezzo, ma c'è chi dice che non ci è degno, che senza pagamento, senza ritegno, ma che siano donne ci oppure. Tu, è lunga pure sta roba. Io me ne fotto, accetto le advance. Dai, unisciti anche tu. Pensi tu finisce sta, ma finisce questo strazio o no? Basta! Giuseppe da Trento, vai. Giuseppe terribile, da Trento, terribile, questo è un cretino terribile, totale. Giuseppe, terribile, dai. Terribile. Giuseppe non c'è. Paolo da Roma, dai, Paolo. Uè, Giuseppe, dimmi, pronto? Dimmi, Paolo, dimmi. Ciao, David. Senti, ti volevo dire, io domenica ho visto al mercato sotto il gasometro, perché non so se sapete che adesso si fa lì il mercato degli zingari di Roma, ho sentito una voce particolare che diceva da lontano, questo costa 5 euro comprato, mi sono avvicinato, ho detto, ma tu sei Sabaeta? Ma ha detto di sì. Allora mi siete venuti in mente voi, scusa, io sono uno tra i 10.000 firmatari dunque di questa grande petizione e voglio dunque, sapere a che punto siamo. Hai ragione. Quello va a Napoli a farsi il vestito da 4.000 euro e un mezzo mese di ingaggio. Intanto non è 4.000, scusami, intanto non è 4.000. Hai perfettamente ragione, ma stiamo procedendo allora, lentamente, perché alla fine dovrà mollare su questo punto qua. Ma non siamo mollare, sempre in pressione, comunque... siamo sempre in pressione, amico mio. Ciao, ti saluto, ciao. Allora, caro Davide, per tutti gli scettici, quelli che non ci credevano, quelli che pensavano è un fake, sta utilizzando delle macchinette, sta utilizzando qualcosa per cambiare la voce, il mitologico trans, o la trans, forse si dice così, la trans Nadia con noi, quella che cambia voce in un secondo da donna a uomo, cara Nadia, come stai? Vai. Bene, grazie per l'applauso, molto gentili da parte vostra. Allora, fu Vincenzo, adesso Nadia. Mamma mia, come brutto fu Vincenzo, sembra quasi una cosa, mamma mia. Ma tu sembri femmina, è qui in studio davanti a me, caro Parenzo, dunque in carne e ossa la signora Nadia. Quindi con la webcam si può vedere, insomma, con sì, la web. Puoi vedere. Ma se vuoi ti posso parlare anche come una trans o come un viados? No, parlami, no, parlami come Vincenzo, parla come Vincenzo. Cioè, parla con Parenzo come se fossi Vincenzo, come se ciao David, come stai? Tutto bene? Ciao, benissimo. Voglio dire semplicemente che negli studi di Radio 24 mi pare un po', come dire, Confindustria, eccetera, però un po' singolare. Comunque, per carità, va benissimo. Ma no, chiedimi per dimmi per quale motivo. Cioè, esponi. No, voglio dire, in genere in quegli studi transitano personaggi del mondo dell'economia, della grande impresa. Ma guarda, eccetera, che ho lavorato nel mondo dell'economia anch'io, anche per 13 anni. Sono laureato in economia aziendale. No, per carità. Comunque ho un vissuto, un trascorso e un background nell'ambito economico di non poco conto. Sai, non che è che il questa fatto voce che abbia fatto. Sì, dimmi. No, la voce maschile è quasi più sexy della voce femminile. Però. Lo so, infatti ha conquistato tantissimo. Non ti nascondo che l'ho strumentalizzata in passato. Adesso con me da femmina, con me da femmina, tu rimorchiavi molto più, non sei una grande bellezza, diciamo la verità. Cioè, come ti consideri, cara Nadia? Bella o brutta? Mi considero un tipo normale che passa comunque indifferente. Ricapitoli, come indifferente? Cioè, sì, indifferente. Non ti senti senso... bella? No, non mi sento bella e neanche mi interessa essere bella secondo i canoni come generalmente viene rappresentata una donna bella, cioè. Senti, ma tu sei favorevole a tutte queste cose, matrimonio gay, adozione eccetera o no? Ma allora sì, io approfitto perché un paio di anni fa io ho praticamente avevo ritagliato una piccola fetta di notorietà perché ho scritto un libro attraverso il quale ho vinto anche un concorso, allora... di questo ne sono particolarmente fiera, e in quel periodo di notorietà mi fecero un servizio che poi è passato, Parenzo questo lo potrà confermare, sulla 7 al programma della Panella. Vabbè, ma come no, certo. Ok, e lì mi vennero proprio diciamo fatte come domande quello che pensavo a proposito della legge Cirinnà che in quel periodo vabbè, comunque però, insomma, impazzava. Se ti ho fatto la domanda no, diretta, io trovo e ribadisco quello che ho detto tanto tempo fa che se non dovessero comunque essere riconosciuti gli stessi diritti per le persone etero, anche le persone gay, le persone lesbiche, trans e quant'altro, che ci sia a questo punto una riduzione, uno sgravio fiscale per le persone considerate di serie B. Io sempre ho detto questo. Vabbè, adesso questo mi sembra complesso. Però io voglio capire una cosa. E innanzitutto sei in carne e ossa, dunque è tutto vero, ragazzi. Cioè, quelli che avevano sospettato questa cosa della voce, ma bisogna sfruttarla questa voce, maschio, femmina, bisogna sfruttarla assolutamente. Con Parenzo devi parlare come fossi un maschio. Cioè, certo. Con Parenzo Vincenzo, con me Nadia. Quando è che hai cominciato il cambiamento di sesso? Anche se tu ancora c'hai l'uccello, no? Sì, dubito comunque di almeno al non momento. Non lo usi, manco la masturbazione, niente. No, anche perché prendendoci... È una specie di vegetale. Ma sì, mi serve come cannuccia per fare la pipì. Come cannuccia per fare la pipì. Io prima, quando sei entrato, la prima cosa che ho pensato è quella, una cosa incredibile. Cioè, la prima cosa che ho pensato, cioè, questa descrizione che mi hai fatto del tuo uccello come qualcosa, come una specie di vabbè, cosa morfa, no? Cioè, come una specie di ingombro, però non te lo vuoi tagliare. Il problema è questo. Che perché non te lo tagli? Ma te lo dico subito. Uno, perché sinceramente, come tante altre persone, io ho paura di andare sotto i ferri. Va bene, questo è giusto. Questo è comprensibile. Secondo luogo, se proprio dovessi fare una scelta di questo tipo, sarebbe un completamento totale. Lo farei comunque quando il mio equilibrio magari non è più come questo, ma dovesse subire dei cambiamenti. Non lo farei comunque in Italia. Perché in Italia purtroppo non voglio screditare. Lo so che è gratis, non voglio screditare assolutamente la sanità italiana, però purtroppo in questo campo non c'è una grossa avanguardia. Quindi sono stati anche molti casi in cui purtroppo le operazioni non sono andate a buon fine e si non sono... ti fidi, non no, ti fidi non del, di come fanno il cambio di sesso in Italia. No, cioè pagano pure no. per il cambio di sesso, non ti fidi. E lo so, ma ci vuole anche professionalità e un certo tipo di. Senti, ma tu quante medicine prendi ancora? Io prendo, come ti stavo dicendo prima, il ciprotirone acetato, che serve a eliminare, ormai abbattuto, il testosterone. E quello elimina già di per sé. E le tette come ti sono venute? Con l'estradiolo, che sarebbe l'estrogeno che viene preso per, diciamo... E per il resto c'è molta cura? Sì, cioè, sì, vabbè, curi. C'è cura, sì, sì, certo. Mi I curo. Peli, ti depili? No, i peli vanno via col ciproterone. Quando il testosterone non c'è più, va via anche tutta la peluria. Capito, Parenzo? Sì, no, ho capito, dici? Il dettaglio, sto prendendo appunti nel dettaglio di tutti questi cambiamenti fisici. Parla della con Parenzo, Vincenzo. Infatti, parla devo con Parenzo. Dire che il mio interesse rispetto ai cambiamenti fisici del signor, del signor, della signora, insomma, della sono molto vedi, relativi. Parenzo, però, scusami, tu mi vedi? Tu mi vedi? Ah, ecco, adesso già così. No, io non ti vedo, caro. Ah, non ti posso vedere. Allora, però andrò a vederti. Però dopodiché non è che mi cambia la giornata. No, questo per dirti, no, no, quello per... che c'entra. No, per dirti, per dirti sì. Che comunque effettivamente la voce gioca un ruolo secondo me fondamentale. Eh beh, quello certo. Ok, nel senso che tu puoi essere anche meno credibile da un punto di vista visivo, però poi quando subentra il tono, comunque la voce. Ma questa è la tua vera voce, questa, Vincenzo? La mia vera voce, sia quella che questa. Sì, ma ho capito, non ma la tua vera, l'originale, quella che qual uso è? Nel ma quotidiano. Come fai? È questa qui, quella che uso nel quotidiano è questa. Ma non ti senti sì, disturbato? Perché, c'è un disturbo per questo? Ma assolutamente no, no. Cioè non ti dà, crea imbarazzo, no? No, mi creerebbe imbarazzo se io andassi al supermercato e all'improvviso mentre parlo così cambio voce. E a quel punto sarebbe anche ovvio aspettarsi che la cassiera mi chiama l'ambulanza per far attivare un TSO, piuttosto invece che chiama un esorcista. Cioè ci sta anche. Perché il problema è soprattutto questo. Quando io lo faccio per goliardia, lo faccio per scherzo, però nel mio quotidiano la voce è questa qui. Senti Vincenzo, ma hai mai avuto rapporti sessuali con donne, Vincenzo? In passato sì, quando comunque manifestavo il mio essere quando uomo. Quando eri uomo, parla da uomo un attimo. Quando ero uomo, sì, ho avuto donne, ne ho avute anche molte, e, per carità, ho fatto le mie esperienze. Per cui conosci la penetrazione e l'essere passivo. Esatto. Conosci tutte e due. Sì. Cioè, da un certo punto di vista è anche privilegiato, capito? Privilegiata, direi, la signora Nadia, capito? Perché conosce l'aspetto passivo. Adesso sei solo passiva, immagino. Sì, adesso no? Sì. Ma hai rapporti sessuali frequenti? No. No, pochissimi. No, anche perché avendo eliminato il testosterone, che era l'unico... Non c'hai manco più stimolo? Fondamentalmente no. Non hai stimolo sessuale? È un fatto di testa. Se trovo cioè non un te ne uomo, frega niente? Fatti consigliare, Cruciale. Se trovo un uomo che mi conquista a livello cerebrale, sì. Allora ovviamente si aprono tanti però altri non c'hai scenari. La... Non c'è quell'istinto. Infatti da questo punto di vista potrei essere anche penalizzata, perché comunque una donna al di là del cervello... Però io su tutti i trans, nonostante le cure che fanno, sono tutti avvelenati di sesso. Te lo dico io, posso farti un appunto su questo? Dimmi. Non confondere il termine trans col termine viados, sono due cose diverse. Sai per quale motivo? Te lo spiego. La vera trans è quella che prende un'assunzione ormonale come prendo io, che tende ad abolire il testosterone e quindi anche quella spinta e quella carica sessuale. Il viados no. Il viados è il classico trans che mantiene attiva la sua parte maschile perché gli serve, ovviamente. Sì. Nello stesso tempo si bomba, neanche con l'estradiolo, ma si bomba col progesterone. Perché pazzesco. Il progesterone comunque, al di là di quello che possono essere gli effetti mamma estetici, mia. Ti rovina e ti devasta il fegato, cosa che ovviamente non esclusa neanche a me, perché l'estradiolo a lungo termine comunque mi potrebbe creare dei problemi. Comunque ragazzi, Nadia in carne e ossa, avete rotto i coglioni con questa storia, è finta. Ah, non io è volevo finta. Dire una cosa, sì, cioè, se non sbaglio l'ultima volta che c'è stato un tipo che ha voluto comunque sottolineare questa... Dicono che sei malato, molti dicono che i trans sono malati. Ma vabbè, per me sono malate altre tu persone. Tu sei felice o no? Sei infelice? Io ho il mio equilibrio, sto benissimo. Sei felice? Sì, adesso sì, prima era una testa di cazzo. Comunque sì. È fantastico perché si risparmia praticamente con un ospite se ne fanno due, capito? Meraviglioso questo dal punto di vista anche economico, sì, lo dico come suggerimento perché l'ingaggio potrebbe essere doppio. Ciao Nadia, grazie Nadia, comunque la conferma che è lei in carne e ossa, non ci sono trucchi, a meno che non c'hai dentro la gola qualche cosa che modifica. No, non c'ho niente, figurati. Ciao. Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi devi avere? Dalle ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! Ehi, Cruciani! Ma che è successo? Ma scusa, ma è andata a fanculo! La zanzara. Ma... Noi ci preoccupiamo di Grillo quando praticamente c'è una propaganda di regime che da anni dice che l'Italia è uscita dalla crisi economica e invece abbiamo le pezze al culo. Ma fanno ridere. Quando qualcuno entra a casa tua, un ladro per esempio, non devi sparare al cuore, devi sparare ai piedi, devi sparare alle gambe. Bang, bang, bang! E vedrai, non tornerà più. La zanzara. Parenzo, qui non è che ci può essere! Ha capito Parenzo? Anche dalla Cina te lo diciamo. Assumi la Rom. quel cazzo di giorno che stiamo facendo un cazzo di bilancio di Carige. Ti prego, vogliamo parlare di figa. Vogliamo Mauro e vogliamo parlare di figa. Giuseppe da Trento, vai Giuseppe, vai. Oh, pronto? Dimmi, dimmi. Eccomi, buonasera a tutti. Dimmi. Buonasera. Allora, premesso che il vostro è uno spettacolo piacevole, interessante, istruttivo. Uno spettacolo. È uno spettacolo. Spettacolo. Allora? Spettacolo è lei uno voglio spettacolo. Dire che io mi rifiuto di pensare che il signor Parenzo sia stupido o fa lo stupido. Come si fa ad offendere una signora? Molto io lieto. Mi riferisco alla signora Friulana. Ah, la nonnina, lei dice, la nonnina Razzistella, ho capito. No, no, no, no, guardi, Parenzo, lei non deve fare lo stupido, perché lei è una persona molto intelligente, non sarebbe la nonnina, la nonnina che è per la razza italiana, per la razza bianca, per la razza... Ma no, la nonnina difendeva la sua identità di friulana, quale le persone identità? Serie, di persone che ma cosa vuol lavorano? Dire difendere l'identità? Ma non quel ragazzo che ha vinto che il concorso di Miss Mister Friuli è una persona che evidentemente si sente friulano, italiano, europeo ed è l'orgoglio di quel territorio, no, guardi, del basket, io, se non altro. Io non condivido lei dovrebbe essere contento, no, guardi, questo è il miglior esempio di integrazione invece. Allora parli. È il miglior esempio di integrazione. Ma no, scusi, parli lei, prego, dica quello allora, che scusi, le pare. Ascolti un attimino, per favore. Che c'è da dire? Ripeto, lei è una persona molto intelligente. Allora? Ma non è vero, non mi interessa. Come Cruciani, eccetera. Ma allora, non l'ho dire, detto la signora che lei deride, la nonnina quella, ha difeso la sua identità di persona seria, di gente che ma lavora, ripeto, i friulani sono persone dire? Serie. Perché non lavora quel ragazzo. Io non condivido totalmente quello che ha detto l'avvocato di prima, però in parte lo condivido pienamente, perché è giusto che una signora, o noi che siamo... quell'avvocato lì ha dato dell'orango e della scimmia alla signora Chieng. E pagherà in tribunale per questo, spero. No, io ho fornito tutti gli elementi allo staff dell'ex ministro. Ma perché? Ho fornito no, tutti io, gli elementi. Io non ho tutti. Sentito del tutto. Quello che ho sentito una parte è che difendeva l'identità senta, della nostra civiltà. La nonnina deve mangiare l'ottimo frico, che è un piatto tipico friulano, ottimo peraltro, che conosco benissimo. Mangi, prepari il frico, patate, cipolle, formaggio, oggi, eccetera. Scusi, Parenzo, e non rompa oggi, le balle col tema della razza italiana o peggio ancora allora, della razza friulana. Non è razza perché italiana, non di, esiste. Quindi, prepari il frico, prepari il frico al nipote, Matteo da Lecce, al nonno, Matteo al papà, da Lecce, chi Matteo, le dimmi, Matteo. Ciao, dimmi. Buonasera. Niente, io volevo fare una riflessione più che altro. Allora, innanzitutto sono mi vergogno di essere italiano con queste persone che ancora bravo. Chiamano negri nel 2017, bravo. È veramente scandaloso. Vabbè, ma la parola negro quando non è utilizzata in maniera dispregiativa si può utilizzare tranquillo. Mi pare che l'avvocato, il cosiddetto avvocato, mi pare che l'abbia usata in modo inequivocabile. Dice negro, dice altre cose tremende, ma non negro, non la parola negro. La parola negro si può utilizzare. Credo che nella maggior parte dei casi venga utilizzata come in senso dispregiativo, penso. Direi. Pronto? Avvocato? Non è che questo può buttare giù il telefono così, Non si può permettere. Dai. Questo in Bergamo. Rosario in Bergamo. Vabbè, risponda se ha coraggio, risponda. Allora chi era? Matteo, dimmi. Sì, no, ridevo per l'avvocato. Niente, volevo dire che io sono favorevole a Mister Friuli, ma nel senso che io penso che abbiano voluto dare un messaggio facendo vincere questo ragazzo. Perché comunque il Friuli, così come parte del nord Italia, probabilmente per un fenomeno di immigrazione. Vabbè, molto allora forte. Matteo, però cerca di non farci venire no, latte non coglioni. C'è da essere a favore che cosa vuoi dire? Non ho capito. Non si capisce cosa vuole dire. Sono favorevole perché di base sono sei favorevole, va bene. Alle Maria d'Ascoli Ascoli Piceno, vai, forza. Sei favorevole. Roberto da Milano, dai. Pronto? Dimmi Roberto, pronto? Dimmi. Ciao dimmi. Ragazzi, parliamo un po' di figa però, perché qua se no perdiamo la bussola. Vai, parliamo no, un po' di mignotte. Sì. Parliamo un po' di mignotte. Allora, io ho 46 anni, sì. Ho cominciato ad andare a mignotte a 20. Sì. Allora, secondo me, le donne di piacere sono tutto quello che serve. Tutto quello che serve per questa società. Bisogna toglierle dalle strade, sì. Dargli un posto dove stare, sì. E farle lavorare. Perché ragazzi, quelle ci fanno star bene. Cioè, sì. Io quando vado a Zoccole, sì. parlo piano perché sennò mi sentono in tutto il condominio. Sono ecco, contento, sono felice. Ah, perché si vergogna. Cioè, no, capito il paradosso? Questo alla radio, davanti a 2,5 milioni e passa di ascoltatori, non si vergogna. Però dice, parlo piano, perché nel mio condominio borghese si vergognano. Bravo, dai. Hai detto una parola giusta, borghese ti vergogni? Di merda, cazzo. Tu, no, ti vergogni? Borghese, perché se non fosse un condominio borghese, dillo, qui sarebbero tutti felici, verrebbero. Ma abbi coraggio, ma lo stai dicendo alla radio. Abbia coraggio. Tutti ma io se quanti, io guardi se sapessi dove sta cazzo, di casa io dai, metterei un cartello fuori ma da casa ragazzi, sua parliamo, mi piacerebbe venire sotto casa sua e fare un grande mondo. Cartello il vostro inquilino ma va a puttane vorrei scriverlo scriverlo ma perché un cartello voglio fare ma perché lo aspetta perché per fortuna c'è ancora discredito sociale per chi va a prostituta per fortuna ma che cazzo dici sei impazzito c'è discredito sociale certamente ma quando mai ma non è vero che c'è discredito sociale, ma non dire cazzate. No, ma è come rubare praticamente, intendi, uguale. Come rubare? No, ma che sei è discredito sociale, c'è cioè discredito no, ragazzi, sociale, cioè non è però, una persona giudizio, così, non è considerata è per fortuna negativo, dalla società ipocrita. La società poi è anche un po' ipocrita per quello, ovviamente, ma, qua, no? Ma tu hai detto che come rubare, ma che cazzo dici? Ma certo, c'è discredito. Col camioncino che vedi quattro belle fighe, ok? Cioè, lei il suo okay, comportamento no, fammi finire il concetto, esemplare. Finire, lei lo dice alla finire. Radio, ma poi parla piano perché sennò nel suo condominio la sentono e la mattina ridicolo. Dicono quello sì, è quello schifoso va bene, che va a puttane okay, e lei giustamente un po' di remore ce le ha dicendo? Perché ma che cazzo di regole? Ma io che è male come rubare, è come se nel mio condominio ci fosse uno ai domiciliari perché ha fatto una mega evasione fiscale, sarebbe considerata una roba. Dice, mamma mia, ma che schifo. Ha ragione Roberto. Che ladro. Aspetta, fammi finire il concetto. Se tu sei per strada e vedi quattro belle ragazze, fai uno striscione fuori di casa tua. Fammi finire, cazzo, un concetto. Quando vedi quattro belle fighe per strada, a me mi piange il cuore che sono per strada perché uno non posso fermarmi con la macchina Bravo. Perché arriva il rompicazzo del vigile che mi dice che cazzo sei qua a fare. Il fenomeno con lo sceriffo. Ti fermi a cosa? A molestare? Fammi finire il concetto, cazzo. Dovrebbero prenderle, mettere in un luogo sicuro e tranquillo dove non c'è violenza, ah, non dove c'è puoi andare tranquillamente. Non c'è... Ma certo, ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Ma dico io, ma anche una persona che magari ha dei problemi, ma non può andare con una puttana a svuotarsi le palle. Quello che ha dei problemi è un altro bravo, discorso. Roberto, bravo, bravo. Però non essere. No, se, quando parli, non avere quella discrezione che hai detto prima, devo parlare a voce bassa. No, se vuoi dire una cosa, no, dillo a voce alta. Perché parla a voce bassa? Non come Parenzo. Aspetta, ormai mi hanno sentito tutti. Basta, dopo lo alzo. Perché ma non come... ancora un po' di tabù. Un po' di sani tabù freudiani no, li ha per fortuna. Ma non c'è nessun tabù. Non hai, per fortuna. Non mi conosci, allora fai così. Conoscermi capiresti. Ma perché dovrebbe essere bollato? Fuori dalla porta di casa tua. Ma perché? Fuori dalla porta di casa ma tua. Anziché scrivere attento al cane o attento allo scemo che ci abita, scrivi io non mi ricordo come si chiama di nome di battesimo. Come si chiama? Come si chiama? Ma quale? Come ti chiami? Il tuo nome di battesimo qual è? Qual Roberto. È il tuo nome di battesimo, Roberto? Di cognome come ti chiami? Matteo, di cognome? Adesso te lo dico a te il cognome. No, Parenzo. Scusami, io mi chiamo David Parenzo. Tu come ti chiami, Roberto? Ma perché? Roberto, e di cognome come, miserabile? Dimmelo. Ma perché? Ma non ho capito. Ma perché? Abbi coraggio. Ma perché uno deve scrivere tal dei tali? Vado a puttane. Ma perché? Dimmi come ti chiami. Abbi coraggio. Soldi per andare a puttane. Forza, forza, coraggio. Se non lo consideri disdicevole, dimmi il cognome. Ma perché dovrebbe dire il cognome? Non ho capito. Ma perché? Perché? Ragazzi, non si scherza. Io sono David Parenzo, lui è Giuseppe Cruciani. Ma è una stronzata, piantala, va. Fermi dimmi tutti, come fermi, ti chiami. Fermi tutti. Allora, Salvini pochi istanti fa, anzi oggi, sta gente, nel pomeriggio, no, ha ragione lui, ha detto sulla legge, quella sul fine vita del biotestamento, ha detto vediamo se decidono estraendo a sorte tra eutanasia, ius soli e altri provvedimenti, io però più che del fine vita mi preoccupo della vita e a me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo, mi occupo pazzesco. Dei vivi, non della morte. Ma che incredibile, incredibile. Davide! Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi racconti. Comunista di merda? Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Non mi importa se non mi vuoi bene. soltanto era imparare a camminare. Eh? Se non ci sei tu, comunista di merda. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. La zanzara. E io penso sempre a scopare ogni donna che incontro. Ecco, dovunque, in banca, un'estranea, vedo una sull'autobus e penso, come sarà nuda? Chissà se me la posso fare. E ancora mi piacciono le puttane. Cioè, ecco, io... Per me l'ideale è che tu le paghi e loro ti vengono a casa e non ci devi discutere di Proust, di film o di... Penso che sia molto più da miserabile aspettare una donna per almeno un'ora e mezza, pagargli il pranzo, offrirgli da bere, il caffè e dover aspettare almeno un'altra volta prima di poterla deflorare, piuttosto che andare da una prostituta, dargli 50, 70, 90, anche 100 euro e scoparla di brutto. Parenzo, non capisci un cazzo. Niente, nulla, zero proprio. Giuseppe, io a 24 anni scopavo prima di uscire di casa la sera con la mia donna. Alla sera andavo dall'amante, scopavamo e prima di tornare a casa mi fermavo a farmi una bella scopata con una bella signorina per strada. Direi che non avevo bisogno, ecco, come dice Parenzo, non sono un miserabile, però non c'è niente di meglio. E comunque, viva il Pio! Alberto da Genova, proseguiamo, andiamo avanti, telefonate, telefonate. Pronto, andiamo, questa pronto, è la grande buonasera. Oasi di libertà dell'Italia. Ottimo. Ti aggiorno, dimmi. Si sta muovendo lo staff della Kenge per capire chi è questo avvocato cassazionista. Che... Ma dai, su, ma basta. Bene, dai. Molto bene, molto bene. Perché tu sei riccione, tu sei... Ma questo non c'entra con quello che ho detto. Però. Dai, su, ma di che stiamo a parlare? Cioè... Allora, Alberto, vai. Sì, no, io volevo rappresentare la razza antropologica dell'uomo italiano che non va a puttane, che non voglio assolutamente giudicare chi invece ci va, perché ognuno ha il diritto di fare quello che vuole. Per cui non sono d'accordo su Parenzo nel giudicare troppo chi va a puttane, però esiste anche chi non ci va e che viene poco rappresentato in questa trasmissione. Sembra che gli italiani siano tutti dei maniaci sessuali, insomma. Io... mi ritengo una persona normale anche se non vado a puttane, perché ormai il paradosso è questo. Ma guarda che non è mica obbligatorio, eh? Cioè nessuno ha mai detto che è obbligatorio. Mai detto che è obbligatorio andare a puttane. Inventate voi, c'è nessuno qui, non si vuole rappresentare solamente quella parte. Tu non vai a puttane, ma anch'io nemmeno io ci vado, ci sono andato qualche volta, l'ho raccontato anche nei dettagli più volte, perché racconto spesso le cose della mia vita. Ma volevo fare statistica, infatti non giudico e non ritengo, anzi, la vostra è una trasmissione che è veramente un'oasi di libertà, a parte gli scherzi, non lo dico per piacere, allora? Ma è così. Niente, volevo solo rappresentare statisticamente che ogni tanto chiama qualcuno che non ci va, che non è una satanata. No, ma assolutamente no. Niente, tutto qui. Vabbè, Emanuele da Udine, vai, Emanuele ciao, Udine, ciao, vai. Salve, aspetti che tolgo la voce. Ecco, togli via la voce, avanti. Ecco, la Napoli si incazza. Non lo so, boh, dimmi. No, ma ha ragione, solo che non mi posso mica cuotere l'orecchio, sai com'è. Allora, sì, senti, sì, giusto, vai. Io dimmi. Parlavo come rappresentante della cultura friulana. Allora? Allora, vengo a sapere da voi che Mister Friuli è nero, quindi sì, sì, cazzo che sì. Me ne frega a me, ecco, per capire. Sì, vabbè, ma questo è legittimo che lei non freghi un cazzo del fatto che hanno eletto Mister Udine. Io sono contro qualsiasi concorso di Miss, mi fanno orrore. Anche a me fanno orrore, però era divertente che un concorso in Friuli eleggeva un nero residente in Friuli, per carità. Ma sa perché è divertente? Perché? Perché? Perché la cosa fantastica è che qua c'è un razzismo atavico che è una cosa mostruosa, no? In realtà. Beh, in allora? Queste zone. Questi, adesso io voglio dire, no? Lei conosce Friuli, viene spesso a Pordenone, Lecce, eccetera, no? L'ho seguito. Vabbè, dunque? Il discorso, sì. Lei ha mai visto l'uomo medio friulano? Cioè lei dice che fanno schifo i friulani? Beh, adesso non generalizzerei così. Fiore di campo. Dopo magari ci sono dei begli uomini. Io sono nella media, sono una persona normale, insomma. Vabbè, tu stai dicendo che sono molto meglio i neri, o almeno quel nero lì, rispetto alla media dei friulani? Ma non lo so, non l'ho visto, ma beh, allora che vuoi dire? Bello, insomma, allora cosa vuoi il dire? Il discorso mio qual è? Ma il discorso della cultura friulana, l'etnia friulana, ma che cazzo è l'etnia friulana? Ma sai, bravo, che noi siamo un troiaio di razze mischiati con qualsiasi cosa? Noi abbiamo slavi, abbiamo francesi, sono, esatto, arrivati i mongoli, vabbè, fino a qua, sono arrivato la qualunque. Allora che cazzo di discorsi è la cultura friulana? Viva qua, i neri allora, viva un nero. E del vino. No, qua fuori del frico e del vino, mi creda? La gente non guarda di là del suo naso. Se lei chiede a un friulano che cazzo è Tina Modotti, che era di Udine, che era una donna con due coglioni d'acciaio, grandissima Tina Modotti, grandissima. Porca puttana Eva, nessuno lo sa. E perché? Esatto. Perché si passano, bravo, il tempo a imbriacarsi nel bar, a bestemmiare, che a volte mi scappa anche a me, le dico la ecco, verità. Meglio, no, meglio, ecco, meglio, meglio oggi no, magari, è logico, nelle la grandissima fotografa Tina Modotti, stupenda, stupenda Tina Modotti. Ciao Manuele, ciao, ciao. Direttrice di Pancho Villa. Ciao, bravissima, bravissima. Salve, ciao. Ragazzi, comunque a noi piacciono spesso anche i criminali, per cui questo Domenico Spada, che ha una condanna a 7 anni, uno degli Spada, cugino di quello che ha dato la testata, condannato a oltre 7 anni per usura aggravata, è stato ospite qualche giorno fa di questa trasmissione, poi ha fatto il giro delle televisioni. Io lo richiamerei, lo voglio richiamare. Figurati se risponde. No, se no, risponde. Rispondo sicuro. Come no? Boh. Domenico, buonasera, signor Cruciani. T'ho fatto diventare un divo della televisione ormai. Un divo della televisione? Ma chi siete voi che mi avete fatto diventare? Io magari vi ho sponsorizzato. No, io sono andato su HBO. Ma per carità di Dio, ma per carità di Dio, dov'è che sei andato? Su HBO, per via americana. Ah beh, quando facevi il coso. HBO è la televisione, sì, ho capito, ma quando facevi il pugile. Ma che ne sa, che Parenzo parla, ma che ne ma sa? Ma che facevi? Ma che facevi, il remake giorno del Padrino? Che facevi, il remake del film Il Padrino? Ma che c'entra il Padrino adesso? No, sei scemo. Fa l'attore. Ma perché mi guarda che fai la figuraccia, fai Parenzo. Ma che porta, fai l'attore, no? E quindi fai il remake del Padrino. Io te lei va. Perché Parenzo neanche se lo merita del tuo di Domenico Spada. Sono contento, dai del tuo a Cruciani e ma dia del lei a me. Ma posso anche dare perché è una brava persona e lei è molto, ecco, geloso lei di questo, eh. Rovinato Cruciani. Ma no, Spada, ma io... due punti. Ma guarda, no, io... no, no, voglio che venga ripreso dalle agenzie. Spada, due punti, Cruciani è una brava persona. Ma guarda, ottimo. Hashtag, Spada, Cruciani sono amici. Qual no, è il problema? Io lo rispetto, qual è il problema? No, ma io no, dico... per carità. No, io dico una cosa. Lusingato. Noi, ma guarda, lusingato, aspetta, lusingato, no, no, no, fermi lusingato tutti. Allora, io non ho nessun siete problema. Amici, quindi. No, siete amici, ma io ottimo non ho nessun problema. Io non ho amico alcun... degli Spada, Cruciani, ma io non amico sono degli amico, Spada. Non c'è amico, diciamo. È geloso, Parenzo. No, geloso. Sono lusingato. Comunque, sono comunque dov'è? La cosa sicura è che vai ormai in televisione come un damerino. Sembra che stai tutto agghindato col vestito. Ma io Domenico Spada è quello. Domenico Spada è una persona che per bene. Ma perché sei terza persona? Cercate di buttarmi, diciamo, la cosiddetta merda addosso. Domenico Spada, beh, la gente lo condannato conosce in primo grado. Domenico Spada, vedi la gente lo ama. Un condannato re, in primo nuovo, grado. Nessuno. Cioè, perché tu ti senti un re, non ho capito. Signor Cruciani, un re no, è un mio detto, un re senza il popolo non è nessuno. Io ho tanto popolo che mi ama. Ma chi? Quale popolo? Che mi ama. Ma quale popolo? Bibbia, a probabilmente. Ama. A voi chi ti a ama? Regina Celi, a Re Bibbia. No, perché devi dire così, a Re Bibbia? Guardi, questo è brutto, questo è brutto. Come dice lei, innanzitutto lì ero molto rispettato. Rispettato perché ti chiami Spada, forse. Appunto, no, ancora Cruciani, dai, facciamola questa strumentalizzazione banale. Perché la gente non ce la fa più ad ascoltare queste cazzate. Vabbè, amico la mio, però è vero. Ma ti scrive da chi ti scrive, per esempio? Gente che te vuole sposare, donne, cose. Italia. Ma le dico una cosa, io ho gli amici che posso salutare, ovviamente. Saluto tutti i miei amici facebookiani, sangramini, tutti i ripatuini, YouTube, i staffagattini, chi vuoi, telegramini, che è lì che lì. Sono nove social che mi amano tutti. Ma chi sono questi? Il signor Parenzo è proprio una capra. Quindi il signor Parenzo, prima no, il signor Parenzo, prima sono di felice parlare con Domenico Spada, deve sapere sei un pochettino acculturato. Ti devi pulire la bocca, Davide. Ti devi pulire la bocca. L'ho detto a Giretti la stessa cosa. Sto parlando con una massa di ignoranti. Però la gente in mezzo alla strada non ci ama, l'avete visto. Romoletto Spada, in cui lo saluto perché ciao cugino mio, ti voglio bene. Ma come lo saluto? Ma io ti voglio bene. Vabbè, comunque, vabbè, giustamente lo saluto. È mio cugino. Beh, è un delinquente, si può dire che è un delinquente? Vabbè, almeno quello. Attualmente sta sotto procedimento penale. No, ecco, c'è una, credo no, no, una condanna. È un delinquente, una condanna, amico mio. È un delinquente. Vabbè. Questo Romoletto è un delinquente, sì o no per te? No, perché attualmente non è un delinquente. Sotto procedimento penale, finché non c'è stata la sentenza di... Vabbè, ho capito, però, amico mio, ma dai. Guarda, allora, ascolti un attimo. Ma tu hai pentiti, ci credi o no? Sono degli infami i pentiti. I pentiti io assolutamente non ci credo, perché sono i primi che vanno a ammazzare la gente. Allora, io ammazzo, diciamo, no, supponiamo, io oggi ammazzo una persona, ok? Devo andare in carcere, chiaramente. Beh, sì, ma io dico, guarda, questa persona, l'invento, no? Mi ha mandato Tizio Caio e Sempronio. Lo Stato che cosa fa? A me non mi fa niente che io ho ammazzato la persona, mi dà, faccio il pentito, mi dà una casa, stipendi, un'altra identità. Vabbè, questa è la storia. A me è giusto, secondo lei, che io ho ammazzato una persona? Beh, dipende, poi ci sono gli scontri, non è che uno parla così. Questa tutto... cosa per me va rivista, il pentito. Vabbè, già, per lui, adesso, per il giurista Spada va rivista. L'altro giorno da Giletti ha detto una cosa meravigliosa, sono quasi geometra. Allora, per il quasi giurista Spada, in attesa che diventi geometra, faccia così. Un attimo, tu parli sempre a bocca soltanto per tagli fiato. Continui a pensare che Roberto, quello che sta in carcere adesso, sia un bravo ragazzo? Ma che stiamo scherzando? Ma certo, ci metto la mano sul fuoco. Scusa un attimo, tu la polizia come li consideri? Delle guardie, sbirri, come li chiami? Io innanzitutto che i poliziotti li ammiro e ci hanno anche a sparare insieme al poligono. Come ci vai a sparare? Qualcosa della polizia io. Come vai a sparare al poligono insieme? Non vabbè. A sparare al poligono, perché io ho anche il porto stavo prendendo il porto con lo sportivo, ma alla fine me l'hanno rigettato. E ti credo, e meno male che me l'hanno rigettato. Intanto i sostituzioni non posso andare a sparare, non posso avere l'arma a casa. Anche adesso vai a sparare al poligono? No, adesso no, perché qui non c'è un poligono qui a Marina, purtroppo. Però ogni non tanto si può muovere da ogni... lì, per fortuna. Allora, sparavo con tutte le armi, dalla 38 alla 45 Magnum, la 347 a... Per fortuna gli hanno tolto tutto, va? Meno male. Il Maverick è il top, il Maverick, e mi hanno insegnato bene, lo sai? Ti piace sparare? Ti piace sparare? Sì, perché io mi sveglio presto la domenica, quindi andavo sempre perché vengo a fastidio a casa più che altro. Scusate, ma qual è la pistola che ti piace di più? La pistola che ti piace di più, qual è? Per me la più precisa è la Croc, quella all'americana. La Croc americana, sì, certo. Va bene. La Croc americana. Comunque, facciamo l'inno italiano. Domenico, facciamo l'inno italiano. Vediamo se te lo ricordi, dato che dici di essere un esempio per il nostro paese. Vai con l'inno italiano. Ma quale esempio? Ma che esempio? Parenzio, sei una tristezza infinita. Ma mi vuoi dare una capocciata? Fratelli d'Italia, l'Italia se destra dell'elmo, lascialo cantare da solo. C'è città la testa, dove la polizia, dov'è? Oh, sei della poi tristezza le borgala, com'è? Da chioma, da che te lo e prenda gli spada, l'Italia chiamo. In galera. Cruciani, mi dica, no, è una tristezza fino al paese di Parola. Ma che è una tristezza? Ciao, amico mio, ciao. Domenico. Amico mio, gli dici pure. Vabbè. Il signor Domenico Spada canta l'inno d'Italia. Non è una bella amicizia che hai, te lo ma posso dire? Ma io non ho nessuna amicizia. Beh, l'abbiamo sentito tutti, mi pare molto chiacchierata come situazione, queste frequentazioni che hai, cioè non è bella, non è una bella amicizia, fidati. Domè? Pronto? Oh, Domè? Oh. Chi è? Sono Cruciani. Ciao Cruciani, dimmi. Senti, ma è vero che ti chiedono i soldi per andare in televisione, cioè che ti danno i soldi? No, che mi danno? Dici che hai detto su Facebook. Dice un sacco di cazzate. Ha la credibilità di Pinocchio. Ha la credibilità di Pinocchio prima di diventare. Aspetta, perché lo devi attaccare? Cruciani. Hai detto su Facebook che ti dicono di non dire che ti danno i soldi. E Pinocchio. Non lo devi dire. Cosa? Ma dai, ti danno i soldi sì o no per andare in televisione? Che a Pinocchio! Un rimborso se... Oh, Parenzio, se la tristezza è finita! A Pinocchio! La tristezza è finita! A Pinocchietto! Enrico, scusa, allora, gli Spada sono come un clan... No, trovare no, grazie. Gli Spada sono un clan mafioso, sì o no? No. No, ciao amico mio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. In diretta sono.